Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Buonasera, io sono Sabrina Minardi. Per 10 anni lei è stata la pupa del boss di Enrico De Pedis, detto Renatino, sepolto in territorio vaticano. Ora è la super testimone dei magistrati che indagano sul caso di Emanuela Orlandi e sui tanti segreti che tuttora avvolgono la banda della Magliana. Per Sabrina Minardi, 50 anni, una vita passata attraverso droga, misteri e dolori, il passato è un'ombra che resta incollata addosso in ogni momento e in ogni singola ora del giorno, nelle parole tremolanti pronunciate a fatica e nei silenzi prolungati che sanno di paure. Paura di nuove ripercussioni giudiziarie, paura di nuove minacce. Sia le prime che le seconde, la pupa del boss le ha sperimentate più volte. Da poche settimane Sabrina Minardi, oltre che super testimone, è lei stessa indagata nel sequestro di Emanuela Orlandi, la ragazza sparita nel lontano 22 giugno 1983. Lei ci conferma il fatto di aver indicato agli inquirenti il punto in cui sarebbe stato abbandonato il corpo di Emanuela Orlandi? Sì, non il punto esatto, comunque sì, gliel'ho indicato. Quindi la zona, grosso modo? Sì, la zona. Quella zona è il quartiere romano di Torvaianica. Qui sarebbe stato buttato il corpo della ragazza in una betoniera, dopo una prigionia passata anche attraverso case, compresa quella dei suoi genitori e persone conosciute direttamente dalla Minardi, come le stessa racconta in Segreto Criminale, il saggio scritto con Raffaella Notariale per i caratteri della Newton Compton. Sergio aveva acceso quella betoniera e ci aveva buttato i due sacchi dentro, l'ho visto. Finito tutto, siamo risaliti in macchina e siamo andati via. Così parla Sabrina Minardi, la super testimone, e le sue parole ai magistrati romani hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio volontario aggravato e sequestro di persona di questo Sergio, identificato come Sergio Virtù, che però ha negato ogni addebito e ogni amicizia con Renato De Pedis. Per la Minardi, invece, lui sarebbe stato l'autista di fiducia di Renatino e avrebbe avuto un ruolo operativo nella scomparsa della ragazza. Ho paura, ora ho paura che mi trovano, guardi, che mi facciano del male. Ha paura Sabrina, lo ripete più volte in questa difficile chiacchierata, la prima dopo gli incontri con Raffaella Notariale, diventati anche un libro. Ha paura anche perché un giorno qualcuno è andato a casa sua, ha suonato al suo citofono nel cuore della notte e l'ha minacciata. Renato mi disse che non era stato un sequestro per soldi, quello di Emanuela Orlandi, ma un sequestro indicato, aggiunse, racconta Sabrina, che dietro c'era Monsignor Marcinkus, che avevano preso la ragazza per dare un messaggio a qualcuno. È per questo che la pupa di Renatino ora ha paura, perché le sue parole portano fino alla Santa Sede e fino ai suoi fitti misteri. Allora ha fatto, no, loro lo sanno, me ne sono andata perché si fa, ma perché te ne vai a questo punto? Non sta bene a casa tua. No, ma perché ho una vita piatta, una vita troppo comune, però loro lo sanno, gli ho detto che ne andavo. Eccolo il fantomatico Mario, questa è la sua voce e questa una delle telefonate che fece a casa di Emanuela Orlandi, telefonate che servivano a rassicurare la famiglia e per prendere tempo, racconta Sabrina Minardi, ma che in realtà a suo dire erano messaggi per il Vaticano. Chi doveva sapere sapeva perché la ragazzina era sparita. Il Papa, dichiara ancora la Minardi, non mentiva quando parlava di una pista internazionale. I soldi dovevano rientrare dall'estero e le persone coinvolte non erano solo italiane. Soldi, sequestri, misteri e piste. Piste che mescolano più storie e più persone. Così la storia di Emanuela Orlandi potrebbe essere legata a doppio filo, secondo la Minardi, con quella di Roberto Calvi, il suo banco ambrosiano, i soldi della mafia, la sua oscura morte sotto il ponte dei Frati Neri di Londra. Tutte persone che Sabrina ha in qualche modo incrociato, a cominciare dal banchiere di Dio e a cui ha subito ripensato quando è stata scoperta la tomba del suo Renatino in Sant'Apollinare, un ex boss della Magliana sepolto in territorio vaticano. Perché Renatino De Pedis, ex boss della Magliana, è sepolto in Vaticano? Lei lo sa? Magari lo sapessi. Forse qualcosa che ha rapporti con il Vaticano, magari lo sapessi perché è sepolto lì. Ma lei quando lo ha scoperto? Ma quando è uscito sui giornali sono rimasta stupita, perché non me l'aspettavo, chiaramente. È qualcosa di cui adesso si sta parlando molto. Lei racconta anche molto di questi favori in Vaticano e dei rapporti che De Pedis aveva col Vaticano. Secondo lei il fatto che sia sepolto ora appunto in territorio del Vaticano potrebbe essere collegabile ai suoi rapporti che aveva avuto col Vaticano, a qualche personaggio in particolare? Ma può darsi. Che tipo di favori Renatino De Pedis ha fatto in Vaticano? Che c'entrava Renato De Pedis col Vaticano? Forse era un benefattore della Chiesa. Un benefattore della Chiesa. Beh, però sì. Voglio dire, lui aveva un determinato ruolo preciso anche all'interno della banda. E lei racconta, ad esempio, di questi borsoni pieni di soldi che arrivavano in Vaticano e che lei stessa ha portato. Quanto spesso le capitava di portare questi soldi in Vaticano? Ma sarà successo 2 o 3 volte. Comunque credo che fossero amici con queste persone del Vaticano. Lui non le aveva mai parlato dell'origine dei loro rapporti, del come avesse stretto queste amicizie? No, assolutamente. Ma sa in particolare con chi? Quali fossero i suoi referenti in Vaticano? Con Marcinkus. Lei cita più volte infatti Marcinkus e dice anche di quando lei stessa aveva affidato a Monsignor Marcinkus dei borsoni pieni di soldi. Ci racconta un po' come andava, com'era anche la trafila, cioè De Pedis le dava questi soldi e a quel punto che le diceva? Portali a Marcinkus, portali in Vaticano. No, in Vaticano. Marcinkus aveva una casa di fronte al Vaticano e mi diceva porta di lì. Le diceva del perché questi soldi dovessero andare in Vaticano? Niente, assolutamente no. Non le diceva nulla? No. E lei cosa ricorda di Monsignor Marcinkus? Che le piacevano le donne. A Sabrina sono stati attribuiti molti uomini, oltre a Enrico De Pedis, uomini con nomi anche potenti e influenti che lei smentisce. Per Marcinkus invece ha parole molto dure, dure per la sua persona, dure per i suoi coinvolgimenti, soprattutto nel caso del sequestro Orlandi. So che Renato ha avuto l'ingaggio per fare un favore a qualcuno, a Marcinkus, dichiara, volendo precisare, come fa nel libro, che non lo dice perché è morto. Forse, ipotizza Sabrina Minardi, il padre di Emanuela, che lavorava in Vaticano, aveva visto qualcosa che non doveva vedere e lui aveva paura che parlasse. Queste le sue ipotesi. Quello che invece afferma di sapere è che Renatino doveva fare un favore a Marcinkus, che doveva mandare un messaggio a qualcun altro in alto, dice. Questo è quello che so, sottolinea Sabrina, un favore e un messaggio. E tra queste due parole si sarebbe consumata la storia di una ragazza e un mistero ancora senza soluzione, quasi 30 anni dopo. Storielle. Storiacce. È stata la più potente organizzazione criminale di Roma e non solo, e ad essa tuttora si rifanno non pochi gruppi malavitosi nelle borgate della capitale. Della banda della Magliana, Sabrina Minardi è stata in diretta protagonista, compagna per 10 anni di uno dei suoi principali boss, quel Renatino De Pedis sepolto nella Basilica Romana di Santa Pollinare, come abbiamo sentito nella prima parte. Quel boss che, secondo quella che fu la sua pupa, portò a termine il sequestro di Emanuela Orlandi. Un caso per cui la stessa Minardi è indagata, oltre ad essere la super testimone dei magistrati. Un caso che porta direttamente in Vaticano e a Marcinkus, secondo la Minardi, quel monsignore a cui lei racconta di portare borsoni pieni di soldi. Io citofonavo, salivo, le lasciavo i soldi, le dicevo questi glieli manda Renato. Lui li prendeva, li metteva da una parte, mi ringraziava e andavo via. Non li contava, non le dava qualcosa di scritto? No. No, davanti a me no. Renato le diceva che soldi erano Da dove provenivano? No, assolutamente. Né io glielo chiedevo. Non si meravigliava del fatto che questi soldi fossero portati in Vaticano? Non più di tanto, cioè io facevo quello che mi diceva Renato, ero piccola, avevo 22 anni. Lei sentiva parlare anche abbastanza spesso di questi monsignori o personaggi vicini al Vaticano, anche per questo non si stupiva? Sì, ma io non mi stupivo, non... cioè non mi interessavano questi discorsi, non so come spiegarle. Ma di Marcinkus, proprio di lui personalmente, lei che ricorda? Come avveniva questo suo ingresso negli uffici di un cardinale importante? Era un appartamento, mi apriva il segretario, credo fosse, non lo so, non mi apriva lui. Poi lui mi aspettava nell'ufficio, io andavo in ufficio, le consegnavo queste borse, gliele mettevo per terra, lo salutavo e me ne andavo. Erano sempre dei borsoni Louis Vuitton, lei racconta. Sì, e io li svuotavo e me li prendevo. De Pedis le dava tantissima disponibilità di soldi, giravano molti soldi quando lui era uno dei boss della Magliana. Sì, c'erano questi soldi quando io facevo, magari mi vedeva triste e così mi dava questi soldi e mi diceva vai a comprare qualcosa. Erano sempre borsoni pieni. Certo. De Pedis, la prima volta che le aveva presentato, non so, un cardinale, gli aveva detto come mai lui aveva questi rapporti con altri prelati della Santa Sede? No, in effetti no. Facevano delle cose insieme. Che vuol dire delle cose? Cose di che tipo? Avevano degli interessi insieme. Gliele presentava come amici e poi soltanto Marcinkus o anche altre persone? Poletti, Vergari. E lei insieme a De Pedis li ha mai incontrati insieme questi alti prelati? Sì, sì, c'era confidenza. Ma non è che lo chiamavano Renatino, le davano del lei, almeno davanti a me. E lei non sa che tipo di affari, diciamo, avessero insieme? Parlavano di nascosto da me, io rimanevo sempre in disparte. Lei ha avuto occasione anche di conoscere qualcuno che provenisse dalla Sicilia, quindi dalla mafia siciliana o anche dalla camorra campana? Io ho conosciuto solo Pippo Calò. E cosa ricorda di quell'incontro, dell'occasione in cui l'ha conosciuto? Ma io non sono stata con loro, sono stata a Catania, sono uscita a fare shopping e mi ricordo che nessuno mi faceva pagare niente. Mi ha accompagnato un autista di Pippo Calò e nessuno mi faceva pagare niente. Sapevo che doveva essere una gita e andavamo a trovare un amico di Renato, di più non sapevo. Lei sapeva chi fosse Calvi? Beh, sì, lo sanno tutti in Italia. La banda della Magliana fu anche questo, un incrocio tra mafia e camorra, e nacque, come raccontò già a Storiacce un altro diretto testimone, Antonio Mancini, che ne fece parte proprio da un'idea di un altro super boss. Io ho un'altra proposta. Cioè? Stecca parve tutti, 50 milioni a testa, quello che avanza lo mettiamo da parte. Invece da pesce poco, in tanti, c'èmo tanto, insieme. Questa è un'ottima base, eh? Insomma, lì bam. Sta base ci serve per far che? E piasse quello che se vogliamo piare a tutti. Che se vogliamo piare a tutti? Roma. Mancini, se lei dovesse definire la banda della Magliana oggi? Mi impadronisco del termine del dottor Sica, un'agenzia del crimine. Un'agenzia che agiva su commissione di altri? Anche quello, sì. Noi eravamo il gatto al quale non bisognava guardare il colore, importante anche a pai d'ovi, insomma. Era reciproco questo, sia dalla parte nostra che da parte di chi ci chiedeva determinate cose. Chi erano le persone che vi chiedevano determinate cose? La faccia per bene, diciamo. Quelli con la cravatta, quelli con i tatuaggi sotto pelle, capito? Could have told me yourself. Aveva una missione la banda della Magliana, controllare Roma, e ci fu un momento negli anni 70 in cui le loro mani furono davvero sulla città e sui suoi palazzi del potere. Da banditi di borgata divennero dunque, come ammette Antonio Mancini, che di questa banda fece parte, un'agenzia del crimine, mercenari dai compiti più loschi che macinavano soldi e omicidi. 600 miliardi di lire l'anno si spartivano tra affari con la malavita organizzata e operazioni al soldo di chiunque, comprese le più deviate frange dei servizi segreti, e per questo hanno attraversato da protagonisti le più cupe pagine della storia italiana di allora, dal sequestro Moro al delitto Pecorelli, dalla strage di Bologna all'attentato al vicepresidente del Banco Ambrosiano. Quello fu il nostro errore, esserci uniti al potere, confida Mancini. Ma se questa è la conclusione, tutto cominciò con un incontro in carcere con Raffaele Cutolo, il capo della Camorra. Raffaele Cutolo è stato colui che a uno di noi, Nicolino Selis, gli ha dato l'idea di questa grossa organizzazione da realizzare a Roma, a immagine e somiglianza proprio della sua Camorra, la cosiddetta Camorra Cutuliana. Abbiamo deciso che, come Napoli doveva essere dei napoletani, la Sicilia dei siciliani, Roma doveva divenire dei romani. Nella sua storia la Magliana incrociò anche la loggia P2 di Licio Gelli e quegli altri misfatti e segreti che il maestro venerabile, che la stessa Sabrina Minardi conobbe, porta con sé. Licio Gelli, mi racconta com'è andata? Io l'ho solo conosciuto, punto. Che impressione le ha fatto? Di un uomo molto potente. E lei l'ha conosciuto con De Pedis? No, l'ho conosciuto per altre vie. Ma lei sapeva che c'erano dei rapporti tra quella banda e Licio Gelli e la sua P2 oppure no? Dopo l'ho saputo, dopo che ho conosciuto Gelli l'ho saputo che c'erano rapporti. Da lui, da Gelli o da De Pedis? Da De Pedis. E lei ricorda che cosa le aveva detto? Che la massoneria era potente e che per questo quindi era un ambiente con cui loro interloquivano. Sì, appunto. Perché c'era uno scambio di favori? Certo. Non sa di che tipo? No, purtroppo no. Che faida c'era all'interno della banda per volere la morte di Renatino De Pedis? Perché lo vollero uccidere? Perché lui oramai era diventato il capo di tutto e si voleva tirare fuori, voleva investire in altre cose, non voleva più fare scambi di droga, eccetera, voleva investire sul mattone, dico io, cioè in appartamenti, negozi, pizzerie. E questo non è stato bene a qualcuno e l'hanno ammazzato, insomma. Lei c'era quel giorno, vero? Sì, lui mi invitò in Polinesia. Io andai con lui in motorino, mi fermai 10 metri prima a prendermi dei calzini in una merceria. A un certo punto sentì degli spari e tutta gente che correva. Uscii fuori, mi misi a correre e lo trovai per terra morto. Lui gli aveva parlato del fatto che all'interno della banda lo volessero far fuori? Sì. Per questo andavamo in Polinesia. E perché gli affari che voleva fare De Pedis non erano ben visti all'interno della banda? Volevano continuare a lavorare con la droga, con i sequestri. Non accettavano il fatto che lui se ne fosse tirato fuori. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare questa intervista, come pure tutta la puntata che dedicammo ad Antonio Mancini, sul sito radio24.it e da lì accedere anche al nostro audioblog. Ciao, a sabato!